Radio 24 Reportage. Nuova e vecchia Turchia. Il paese al bivio tra il sultano Erdogan e il giovane Demirtas. Di Marco Barbonaglia. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der. Hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. İşte bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao enneri volammış. Lo chiamavano il sultano, almeno fino ad una settimana fa. Leader incontrastato della politica turca per quasi 13 anni, chissà se Recep Tayyip Erdogan trovava offensivo, irridente il paragone, o se sotto sotto non era invece lusingato di venire messo a confronto con i signori della dinastia di Osman, per i quali non ha mai nascosto l'ammirazione. Appena eletto presidente della Repubblica, in partenza per Ankara, non mancò di fare una piccola sosta nella moschea di Eyüp, fuori dalle mura dell'antica Costantinopoli, vicino alla chiusura del Corno d'Oro, esattamente dove gli ottomani, divenuti sultani, cingevano la spada del loro capostipite. Carismatico, amato, odiato, temuto, pronto a rivaleggiare con la leggendaria figura di Kemal Atatürk, il padre della moderna Turchia. Ma qualcosa sembra essersi guastato il giorno delle ultime elezioni, quando i turchi hanno fermato Erdogan ad un passo dalla forse definitiva consacrazione. Aveva chiesto loro di trasformare il paese in una repubblica presidenziale. Sarebbe così arrivato a rivestire un potere mai accordato a nessun altro prima. Ma il popolo sembra avergli voltato, almeno per ora, le spalle. Certo, il suo partito, l'AKP, ha preso quasi il 41% dei voti. Normalmente una vittoria schiacciante, con il secondo partito, il CHP, che non supera il 25%. Per lui invece una sconfitta che brucia, con questo risultato ha perso per strada il 9% dei voti rispetto al 2011. Non solo la Turchia ha detto no al cambiamento della Costituzione, insomma, ma gli ha negato perfino i seggi per mettere in piedi un governo monocolore, cosa che aveva potuto fare ininterrottamente dal 2002. Un'analisi di questa sconfitta prova a farla Etienne Marjupan, ex advisor del primo ministro del governo uscente Ahmet Davutoğlu ed editorialista del quotidiano Sabah, vicino ad AKP. It will be a lesson as well because AK Party came down from 50%. C'è una lezione da imparare, perché AK Party aveva il 50% e alla fine dello scorso anno i sondaggi mostravano che il suo potenziale era tra il 50 e il 55%. Quindi se paragoni il risultato al tuo potenziale, questa non è affatto una vittoria. Sono stati commessi molti errori e il problema è che molti sono stati completamente irrazionali considerando la base dell'AK Party. Abbiamo gente fortemente nazionalista, islamisti e così via da una parte e abbiamo anche le nuove generazioni che hanno ricevuto una buona istruzione, che sono globalizzate, alcuni di loro piuttosto ricchi e vivono nelle aree urbane. Così, per prendere i voti di entrambe le parti, il partito deve cercare di oscillare da un punto di vista retorico e non solo. E penso che in ogni oscillazione abbiano compiuto qualche errore. Insomma, per cambiare il paese, devi cambiare anche tu. Quindi io penso che questo sia stato il principale problema e che lo sarà per AK Party negli anni a venire. Al di là delle ragioni della sconfitta, molta gente vive con grande soddisfazione questo momento. Cem, 40 anni, è un commerciante con un negozio al Sultanahmet, la zona più famosa e turistica della città. È stato a Gezi Park nel 2013 a contestare il governo e ci dice i turchi hanno pensato che Erdogan doveva essere fermato. Turkish people thinks that Erdogan has to be stopped. Erdogan pensava, ho un paese molto potente a mia disposizione e posso fare tutto quello che voglio. Per questo i turchi hanno provato a dargli una lezione. Noi vogliamo la democrazia, continua Cem, e più libertà. E per questo non vogliamo sistemi dittatoriali. Give him a lesson. You know, we will support to democracy and the more freedom. That's why we don't want to dictatorial system. Recep, una trentina d'anni, ha fondato una società che fornisce servizi agli stranieri che si trasferiscono ad Istanbul, soprattutto agli studenti Erasmus. Anche lui ha partecipato alle proteste di Gezi Park, alle quali attribuisce un ruolo importante nella sconfitta subita ora dall'AKP. I think it was effect of Gezi also. Ammette che Erdogan non è un dittatore come Gheddafi o Saddam o per esempio il leader della Corea del Nord, ma secondo lui siamo in presenza di un altro tipo di dittatura più simile ad un'oligarchia, con un gruppo di persone che riceve favori da parte del governo, mentre chi è contro Erdogan viene visto come un terrorista. Ecco perché, dice Recep, lui non potrà mai essere il mio presidente. Certo, c'è stato un tempo nel quale Erdogan veniva visto come un riformatore e non soltanto entusiasmava la Turchia, ma trovava enormi consensi anche in Europa. Zeki, 28 anni, curdo, laureato, è manager in un hotel di Sultanahmet. Lui ammette di aver votato Erdogan agli inizi perché diceva qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno aveva detto prima ai turchi. Diceva: ci sono molte persone diverse, differenti religioni, diversi gruppi etnici e bisogna accettarli tutti. Ma alla fine ha utilizzato tutte queste cose soltanto per il suo potere. E se il grande sconfitto è Recep Tayyip Erdogan, il vincitore è l'uomo nuovo della politica turca, Selahattin Demirtas. Giovane progressista, difende le minoranze, ha ottenuto il 13% dei voti, circa 80 seggi, e ha fatto entrare per la prima volta in Parlamento un partito filocurdo, sottraendo così ad Erdogan i seggi necessari per formare un governo targato solo AKP. Avvocato dal sorriso aperto, con un passato da attivista per i diritti umani, ha fondato la sede di Amnesty International di Diyarbakir, divide la presidenza del partito con una donna. È il simbolo della nuova Turchia che potrebbe nascere e un vero incubo per Erdogan, che dopo averlo attaccato molte volte in campagna elettorale è arrivato perfino a definirlo sarcasticamente una pop star dopo la sua esibizione televisiva con il saz, strumento tradizionale turco. Eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize. Spesso Demirtas piace anche agli esponenti degli altri partiti che gli riconoscono un ruolo fondamentale nella sconfitta di Erdogan, come spiega Tamer Cebi di Kadıköy, roccaforte laica nella parte asiatica di Istanbul ed esponente del CHP, il partito fondato da Atatürk e la seconda formazione politica del paese. Lui ha usato sua politica non solo per suo gruppo etnico, secondo me ha fatto un politica per tutta Turchia. Importante che lui ha voluto dire: non vogliamo vivere con essere con un dittatore. La gente ha voluto vivere con Parlamento, vivere con libertà, vivere con Parco di Gezi, anche da Taksim. È successo 2 anni fa in Turchia, tutti i giovani sono andati a Parco per libertà. L'unica preoccupazione che Demirtas dovrà fugare è quella di poter virare verso una politica troppo filocurda. Cem dice che non l'ha votato e che Demirtas è una persona molto positiva, che l'EDP sostiene di voler diventare un partito turco a tutti gli effetti, non soltanto per i curdi, e per questo la gente ha pensato di dar loro una chance. Recep sostiene che Demirtas gli piace molto e che si può capire facilmente che è onesto e che non è aggressivo. Ha messo dell'umorismo nella politica, dice, attaccando Erdogan con le parole e con un pizzico di sarcasmo. Zeki afferma invece che, pur essendo curdo, non sostiene Demirtas soltanto per questo motivo. Nell'EDP sono democratici, sostiene, parlano per tutti i tipi di persone, per i liberali, per le femministe, per i musulmani, per i gay. Il problema curdo è parte di un problema di democrazia e se risolvi il problema della democrazia puoi risolvere il problema curdo allo stesso tempo. Problem is part of democracy. If you solve the democracy problem, I think you can solve Kurdish problem as well. Başta oturur bir güzel sevdası beni bitirir. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni. In Europa viene già chiamato lo Tsipras o addirittura l'Obama turco. In realtà Demirtas è qualcosa di diverso, è l'unica vera novità nella politica del paese della mezzaluna. Dovrà ora muoversi con attenzione, soprattutto non disperdere questo grande credito di fiducia che i turchi gli hanno concesso. È lui l'uomo al quale sono affidate le principali speranze di veder nascere una nuova Turchia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.